Non è che io voglia causare dei crucci a buon mercato e nemmeno aumentare il prurito di chi mi è venuto a sentire. Se è vanità, sia punita con i gendarmi e con la galera. Io, in tutta sincerità, vi racconto la mia storia vera. Perdonatemi questo ardire, la mia scarsa abilità. Chiedo a tutti di pazientare, fra poco la musica finirà. E scusate la poca pratica che mi rende un po' oscuri i pensieri. Il destino mi frega sempre. Pertanto che sempre mi illuda di fare. E se il mio sforzo non serve a niente, che io trovi la forza di continuare. Ma tu, fratello, non mi condannare. Non c'è male, per quanto sia grande, che non venga anche per un po' di bene. Per anni sono andata vagabonda, gemendo tutta pesta, a faticare, in capo al mondo, addannata per campare. Ma non voglio entrare nei dettagli, andare a rimestare nella cenere, perché il male scandalizza di vergogna, spezza i nervi e le ossa, mi ripugna. E poi il vento ha già spazzato via il rancore e le batoste sono disperse in mare.